Io posso solo dire telegraficamente due cose su due questioni, una quella della manifestazione e una quella dell'autonomia. Da un lato la manifestazione non è che secondo me è oggi che ha stufato, cioè la manifestazione è fin dalle origini come diciamo, liturgia laica di un insieme di persone che percorrono le strade urbane secondo una certa autorizzazione, secondo un certo schema. Fin dall'inizio un modo di disciplinare comunque pratiche di riappropriazione della città che nelle rivolte storiche, anche del XIX secolo, prima ancora si erano date, quindi la manifestazione porta già in sé fin dall'inizio questo dato. E, però nel momento in cui si pratica uno sciopero metropolitano, un blocco metropolitano come quello per esempio che tu hai immaginato, lì per esempio si andrebbe un livello comunque che è altro rispetto a quello di una manifestazione di questo tipo, che sarebbe sicuramente più incisivo, no? Nel momento in cui non se ne hanno le possibilità, chiaramente la manifestazione rimane uno strumento da utilizzare a 360 gradi, tenendo conto che esiste già anche uno strumento di critica dall'interno della manifestazione, che è il riot, che è una cosa che tra l'altro è stato utilizzato a Rostock, come a Parigi, come a Copenaghen. E nonostante spesso sia detto, non so perché negli ultimi anni, che quel modo di stare in piazza sarebbe un modo sbagliato o superato, in realtà si ripropone sempre perché è proprio una critica della manifestazione come elemento disciplinato dall'alto e indirizzato all'interno di un certo, diciamo, contesto, bloccato o chiuso. E per quanto riguarda poi l'autonomia, velocemente, penso che sia un equivoco quello di ritenere l'autonomia come un prendere le distanze da o un ritagliarsi uno spazio da qualcosa. Forse oggi, che è tornato un po' in auge il termine autonomia del movimento, c'è questo tipo di equivoco anche perché, visto che forse qualcuno nel corso degli anni aveva ritenuto o aveva percepito più o meno distintamente di aver perso autonomia, adesso, quando si ricomincia a parlare di autonomia, lo si fa declinando, oppure anche in modo interessante e positivo in questo modo, cioè riprendiamoci una certa autonomia da certi ambiti istituzionali di partito o di sindacato o quel che sia. In realtà l'autonomia è sempre produttiva, ma proprio costitutivamente l'autonomia, si possono fare velocemente alcuni esempi. Intanto l'autoformazione è una pratica di autonomia che non è che sia il fatto di andare dire adesso non si legge più un libro, no, ci rendiamo autonomi all'università nel senso che non studiamo più, almeno così secondo me, bensì è un modo autonomo di far circolare i saperi che è chiaramente produzione, la produzione è la seconda, la terza o l'ennesima potenza, nel senso che è molto più produttiva a livello di cooperazione sociale appunto di quello che è il sapere che poi viene trasmesso attraverso l'accademia o attraverso anche la formazione aziendale, eccetera. E altri esempi possono essere la stessa autonomia, così come si è data nelle fabbriche durante l'epoca dell'operaio massa, che comunque quando la catena di montaggio si doveva cooperare per il rifiuto del lavoro era sempre sulla base di un'autonomia che era sempre un'autonomia soggettiva, di saperi, di competenze che venivano fatte circolare, quindi era sempre una dimensione produttiva. E si potrebbe tornare fino all'autonomia delle grandi occupazioni di fabbriche dove comunque gli operai ponevano in essere grandi dimensioni produttive. A Cornigliano e Genova venne costruita un'enorme nave dagli operai in autogestione della fabbrica, poi chiamata Lenin. Quella per esempio era una produzione autonoma e chiaramente qualcosa di che tu hai, la nave prima non esisteva, poi è esistita, quella è l'autonomia. Ecco. Poi chiaramente si può anche pensare di declinarla in altri modi, però secondo me l'elemento principe dell'autonomia è la produzione.